Ciao a tutti, sono Barbara e questo è Yogurt Acid Care. Yogurt Acid Care è il mio progettino, una visione fluida ed estensiva dello yoga come cura radicale per l'individuo in un contesto in cui la società non è idilliaca, ma frenetica e iperurbanizzata. Io sono una praticante e insegnante di Hatha e Iyengar Yoga. E non voglio con questi podcast, con questo programma radio in realtà perché è live, non è un podcast. Non voglio insegnare niente a nessuno, non sono una storica della disciplina, ciò che mi interessa è condividere ciò che per me è stato utile, sia come pensiero che come pratica. Siamo al no, siamo all'ottavo episodio. Abbiamo superato la settimana. Siamo alla seconda metà di questo percorso di 14 giorni di mantra e pensieri sani per la nostra mente, carichi di nuovo prana, di energie positive, in questa seconda ondata di lockdown che attanaglia noi, anime pseudo legate a questa zona rossa. In quanto possiamo fare alcune cose, ma poca soddisfazione per la nostra anima. Quasi sempre casa, lavoro, lavoro, casa, massimo fare una spesa, nutrirci, consumare. Quindi con questi 14 giorni il mio obiettivo era passarvi qualche stimolo per iniziare la giornata con un mood bello alto. Ogni episodio è andato in onda alle 10 e poi va subito caricato in archivio sia su radiovirus.org che sul mio Mixcloud, Barbara Mulas. Mi trovate anche attraverso i link di Instagram, chiocciola Barbara La Mulas, e su Instagram trovate anche qualche pratica più corporale legata alle asanas. Il mantra che tratteremo oggi è Om Vardunam Namaha. Om Vardunam Namaha. ormai immagino abbiate in mente cosa sono i mantra, in maniera molto sintetica per le persone che hanno iniziato adesso a seguire il podcast. No, il podcast è un episodio live, sto parlando live dietro un computer. Per chi ha iniziato adesso a seguirmi, i mantras sono delle sillabe o composizioni di parole, considerati cibo per la mente e per l'anima. Antichissimi, i primi mantra si trovano prima della nascita di Cristo nei testi antichi. Hanno una connessione diretta con l'anima, si dice, sia per il suono e le vibrazioni connesse al suono in sé, perché stimolano delle frequenze che riverberano all'interno della nostra mente, del nostro corpo e della nostra anima, sia per il significato che inglobano. Ah, si dice che i mantra vadano recitati 108 volte perché c'è una connessione simbolica dei nove pianeti che muovendosi attraverso le 12 costellazioni creano appunto 108 diversi effetti sulla nostra anima e sulla nostra vita in generale. I mantra si possono recitare verbalmente o mentalmente. Chiaramente il riverbero del recitarli a voce alta è leggermente più forte, tra virgolette, a livello di frequenza e vibrazione rispetto che recitarlo mentalmente. Si possono sia recitare in maniera plain che intonare. Io non lo reciterò, ma vi suggerirò solo la composizione delle sillabe. Non mi sento di dare un'intonazione a una cultura che ancora conosco poco e che sicuramente non mi appartiene. Mi piacerebbe che da qui ognuna di voi prendesse con le pinze ciò che dico e magari sfruttasse l'occasione per fare una ricerca più approfondita se l'argomento è di interesse. Namaha. Io nutro l'universo, mi prendo cura dell'universo e l'universo si prende cura di me. Om Vardhanam Namaha. Questo mantra attiva il principio della cura nella nostra vita. Tende a rinforzare la nostra relazione con la fonte del supporto per noi, attraverso quella pura coscienza che rivitalizza corpo, mente e spirito. Si parla di cura, si parla di nutrire e avere attenzioni nei confronti di quell'universo che ha una serie di attenzioni nei nostri confronti e ci permette la vita. Il chakra associato a questo mantra è il nostro terzo occhio, l'Ajna chakra, che prima di ogni rilassamento vi ricordo sempre di rilassare, di distendere, sta nell'incavo delle due sopracciglia. Om Vardhanam Namaha. io mi prendo cura dell'universo, lo nutro e l'universo a sua volta nutrirà me. L'idea del supporto reciproco è fondamentale in questo periodo. Io do, io ricevo. Più do, più sono disposta a dare, più riceverò in maniera spontanea. Non possiamo aspettarci di ricevere se non siamo noi in prime disposte a dare. Non possiamo aspettarci di ricevere qualcosa di specifico che desideriamo, tipo la comprensione, la gratitudine, affetto, riconoscenza, gentilezza, se non siamo noi le prime a dare comprensione, gratitudine, affetto, gentilezza, riconoscenza. Se desidero ricevere un certo tipo di comportamento, se desidero un certo tipo di energia o un certo tipo di attenzione, devo io in primis predispormi per darla, perché se la do, attrarrò la stessa cosa, uguale e inversa. Sfortunatamente viviamo in un loop di violenza e mi viene sempre in mente Kali Yuga, l'epoca in cui siamo. Ne ho parlato, non mi ricordo se è il secondo o il terzo episodio, vi raccontavo che in questa visione circolare dell'universo le epoche sono divise in quattro e sono dei lassi temporali enormi. E noi stiamo vivendo l'ultima epoca, l'epoca di Kali, che è un demone, che si dice che sia un'epoca contraddistinta da violenza diffusa e accettata. Siamo immerse nella violenza, la riceviamo continuamente in maniere sia sottili che assolutamente non. E la cosa più grave è che l'abbiamo normalizzata praticamente. Siamo spesso anche noi le prime ad esercitare qualche forma di violenza su noi stesse o il resto dell'universo, animato e non animato. Può succedere che esercitiamo della violenza, sfortunatamente perché siamo immerse. Per esempio, sono arrabbiata con questa situazione, con il sistema, quindi potrei essere tendenzialmente più aggressiva nei modi senza accorgermi. Però la mia aggressività e la mia energia vengono trasmesse e quindi si forma questo ciclo difficilissimo da interrompere. Però così come violenza porta altra violenza, praticare gentilezza porta incredibilmente altra gentilezza, quasi sempre in risposta, o comunque pianta un semino nelle coscienze. Proprio ieri, sapete, non so se mi siete updated, io non sicuramente no, ci sono una serie di giornate internazionali dedicate a tumore al seno, gender fluid, body diversity, un sacco di giornate internazionali per celebrare dei punti importanti di consapevolezza dei problemi universali. Ieri era la giornata internazionale della gentilezza. Il mio invito oggi è questo: Om Vardhanam Namaha. Io nutro l'universo e l'universo a sua volta nutrirà me. Pratichiamo gentilezza. Anche quando riceviamo violenza, facciamocela scivolare addosso, perché sicuramente è una proiezione e non ci riguarda e non dobbiamo portarci sulle spalle la merda degli altri. Facciamoci scivolare addosso tutta questa negatività e cerchiamo di rilanciare con gentilezza, positività, frequenze alte. Circondiamoci di persone con frequenze alte, circondiamoci di cose e situazioni positive, gentili e a frequenza alta. Eliminiamo tutte le tracce di tossicità se riusciamo che ci circondano. Non è scappare, decidere che un atteggiamento, una persona, un luogo, una situazione o qualsiasi cosa non ci fa star bene e ha delle frequenze basse per noi. È self-care. Io nutro l'universo, l'universo nutrirà me. Om Vardhanam Namaha. Om Vardhanam Namaha. Lentamente ci prepariamo alla meditazione di oggi. Troviamo la nostra posizione confortevole, seduta, sdraiata, pancia in su possibilmente, se sono seduta non collasso sulla sedia, magari cerco di tenermi su con la mia colonna, utilizziamo ciò che abbiamo. Faccio qualche stretch per risvegliarmi. Inspirando sollevo le braccia oltre la testa e faccio dei movimenti laterali e circolari con la mia cassa toracica, aprendo il petto, mobilitando le dorsali. Poi faccio un paio di twist, se riesco, muovo anche leggermente le anche e la zona pelvica. Risvegliamo questa energia che è ancora dormiente. Una volta che ci siamo, troviamo la nostra posizione confortevole, ci prepariamo allo Shavasana. Cerchiamo di non muovere il corpo durante la durata della meditazione per permettergli un abbandono completo e una concentrazione profonda della nostra mente. Rivolgiamo tutta la nostra attenzione all'interno, chiudiamo gli occhi, diventiamo delle osservatrici esterne, testimoni rispetto al nostro corpo, al nostro respiro, alla nostra mente. Inspiriamo ed espiriamo solo ed esclusivamente con il naso. Quando inspiriamo, sentiamo l'addome che si gonfia. Quando espiriamo, sentiamo l'addome che si sgonfia leggermente. Ascolto le parti di contatto del mio corpo con ciò su cui sono poggiata. Osservo le sensazioni legate a questa parte di contatto, senza né giudizio né interazione. Lascio andare le sensazioni. Procedo velocemente a performare una pratica yoga nidra per connettere il mio corpo, lasciarlo andare e sensorializzare ogni parte. Rivolgo tutti i miei sensi ai piedi. Sento i miei piedi dall'interno all'esterno. E con un espiro li lascio andare completamente. Sento il retro delle gambe. Espirando, rilasso il retro delle gambe. Sento poi il fronte. Lo lascio andare. Rivolgo i miei sensi al pube e all'addome e lentamente, espiro dopo espiro, sento e rilasso gli organi interni. Sento il diaframma, sento il torace ed espirando rilasso polmoni, bronchi, bronchioli e lascio andare anche le tensioni della cassa toracica esterna. Porto i miei sensi alla schiena, ascolto gli appoggi, percorro, espiro dopo espiro ogni singola vertebra, dalle sacrali fino alle cervicali. Rilasso anche le spalle. Sento il retro delle braccia. Rilasso completamente il retro delle braccia e arrivo alle mani. Sento il dorso, le dita, palmi, polsi. Li lascio andare completamente e percorro poi il fronte. Distendo entrambe le braccia, le lascio andare. Non le sento più, così come il torso e le gambe. Rivolgo allora i miei sensi e la mia attenzione al capo. Rilasso il retro del collo e la gola e vado a sentire i miei capelli uno a uno attraverso la cute. Lascio andare completamente i capelli, poi la superficie del viso. Espirando rilasso i zigomi, le tempie, le guance, le orecchie, mascella. Sento il naso, lascio andare le vie aeree, poi la bocca. Rilasso espirando completamente l'interno della bocca, dischiudo i denti e le labbra e lascio che il mio viso sia sorridente. Sento gli occhi, le palpebre, le sopracciglia. Li lascio andare espirando, poi rivolgo i miei sensi al centro della fronte, al nostro terzo occhio, a Ajna Chakra, e con qualche respiro più profondo cerco di eliminare le tensioni che ho accumulato in questo punto della fronte dove avvengono tutte le mie attività neurali che visualizzo sotto forma di onde. Espiro dopo espiro, elimino completamente queste onde. Riporto una calma piatta al centro della mia fronte. Osservo il mio corpo abbandonato e pesantissimo che affonda nella superficie che lo sostiene. Osservo il mio respiro sottile, silenzioso. Osservo la mia mente senza giudicare se ancora i pensieri la attraversano. Cerco di rimanere a contatto con il respiro, mantenere questa connessione. Introduciamo il mantra Om Vardhanam Namaha. Om Vardhanam Namaha. Io nutro l'universo, l'universo mi nutre. Om Vardhanam Namaha. Cerchiamo di pronunciare questo mantra in maniera spontanea e non forzata e di dilatarlo della lunghezza dell'espiro, senza forzarlo né forzare l'espiro. Om Vardhanam Namaha. Om Pardonam Namaha. Om Pardonam Namaha. Siete libere di ripeterlo mentalmente o verbalizzarlo a voce alta. Proseguite da sole. Vi inviterò ad abbandonare il mantra quando sentirete una campanella. Om Vardhanam Namaha. Om Vardhanam lentamente, lascio andare il mantra e faccio qualche respiro più profondo per riconnettere il mio corpo, rilassarlo e svegliarlo gentilmente. Inizio anche a muovere le dita delle mani e dei piedi, se voglio chiudere la meditazione, se no rimango così come sono. Per chiudere l'episodio di oggi vi ripeto i 7 interruttori per la felicità che ho svelato giorno dopo giorno durante la precedente settimana. Il primo switch di 7 giorni esatti fa era Give to your neighbor, poi c'era Transmit love and light, Let go of things do not serve you, indulge, give thanks, give yourself, forgive, in italiano. Dai al tuo vicino. Il secondo era trasmetto amore e luce. Il terzo, lascio andare le cose che non mi servono. Quarto, indulge, tradotto, vivo al meglio, mi concedo le cose. Poi sono grata, do me stessa e do il meglio di me e perdono. Mi piacerebbe che oggi rifletteste su questa settimana passata e il primo switch, give to your neighbor, do al mio vicino. Come avete dato ai vostri vicini, come i vostri vicini hanno dato a voi ex post, che cosa cambia nella vostra attitudine una volta considerate queste cose. Om Vardhanam Namaha. Io nutro l'universo, l'universo mi nutrirà a vicenda, è una questione di prospettiva. Direi che vi saluto con questo, chiudo l'episodio così e ci aggiorniamo domani. Buona giornata, anime.